Cantine di Franciacorta. Bentrovati, oggi siamo a Provaglio di Iseo a visitare la cantina Brami Elisabetta, una startup, attività iniziata 5 anni fa, primo vino Italy fatto quest'anno e prime bottiglie di Franciacorta sul mercato. A Elisabetta Brami chiediamo le prospettive per il futuro della neonata cantina. Noi abbiamo strutture e terreni che ci porteranno ad arrivare ad un volume di circa 100-110 mila bottiglie. Vogliamo concentrarci sulla produzione solo e esclusivamente del Franciacorta, perché riteniamo che questa sia la produzione che ci porterà a sviluppare l'attività al di là dei confini. Quali sono gli ingredienti necessari per iniziare un'attività del genere? Passione per questo prodotto, ovviamente. Ma vicino a questa passione ci vuole un progetto che poi deve essere ovviamente seguito passo passo, portato avanti e, se necessario, anche aggiustato. È tutto, alla prossima tappa. Vi aspettiamo al Festival Franciacorta in Cantina il 18 e il 19 settembre 2010.